Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Uno degli argomenti che mi è capitato di straforo, di lambire, parlando del clima natalizio, post-natalizio, pre-capodannesco, insomma festivo, è quello del gioco. Il gioco in famiglia è un'attitudine, è una consuetudine che è molto praticata in molte regioni del nostro paese. Io sono centro italiano, quindi posso dirvi che nell'Umbria, nelle Marche, in zone dell'Alto Lazio, è una grande consuetudine vedersi sotto le vacanze Natale con amici, ma soprattutto con conoscenti, con colleghi, con la scusa bonaria di bersi e mangiarsi qualcosa assieme alle famiglie, con la reale motivazione di sottrarre denaro dalle tasche degli amici. Si arriva felici, ci si abbraccia, si fa gli auguri, le mogli scappano in cucina con le teglie delle lasagne, gli uomini si mettono intorno a un tavolo, si tolgono le giacche, accendono le sigarette, stappano le bottiglie, parlano del più del meno. E poi cominciano i percorsi incrociati degli odi, delle vendette, le rivalse, insomma quel sistema misto di gioco, sfruttamento, finte amicizie che è stato mirabilmente rappresentato nel film Regalo di Natale di Pupi Avati 1 e 2. Beh, contemporaneamente vediamo un grande affiorare di fortune al gioco, ce n'è stata anche una favolosa proprio nella giornata di ieri di cui parleremo oggi, insomma gli italiani e il gioco. Guardate, non a caso il gioco viene considerato una delle attività demoniache, diaboliche e di fonte di perdizione delle famiglie, e anche è stato un grande sistema per l'Italia per uscire dall'analfabetismo digitale. Il digital divide in Italia è stato superato fondamentalmente su due grandi piani: quello del social networking, cioè quello del tacchinamento informatico, del cyber adulterio, del adescamento tramite computer che ha trasformato impiegati e impiegate della pubblica amministrazione e geometri ragionieri in Don Giovanni e Messaline. Quindi da quel punto di vista si sono evoluti, hanno imparato ad usare le macchine di relazione. E l'altro grande terreno è quello del gioco. Gli italiani sono tra i più assidui, tra i più fervidi, tra i più ingegnosi, tra i più alacri giocatori online. Quindi non è che noi abbiamo dei problemi a rapportarci con le macchine, semplicemente lo facciamo soltanto in terreni che più ci piace, che è quello del denaro, del divertimento e della passione. Un altro anno record per il mercato dei giochi in Italia. Nel 2010 gli italiani hanno infatti speso per tentare la fortuna oltre 60,8 miliardi di euro, una cifra in aumento dell'11,8% rispetto ai 54,4 miliardi spesi nel 2009. In pratica ogni italiano avrà speso a fine anno oltre 1000 euro nel settore del gioco. Si tratta di un dato pro capite che pone l'Italia fra i primi tre paesi al mondo in questa speciale graduatoria. Sorride anche l'erario, visto che il prelievo fiscale complessivo è di 8,8 miliardi di euro. Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno. Fabio Felici è stato varie volte nostro ospite, uno dei più grossi esperti con addentellati ovunque sul gioco in Italia, direttore dell'Agicos, che è l'agenzia giornalistica di concorsi e scommesse, quindi di mestiere dà informazione su tutto ciò che accade nel mondo del gioco. Abbiamo subito una grande novità di cui vogliamo commentare, fresca vincita proprio della giornata di ieri. Cosa devi commentare? Diamo la notizia e commentiamola. Ieri sera della doppia vincita del 6 a Napoli, ieri nella stessa ricitoria, caso unico nella storia del gioco, ci sono state due schedine vincenti da 36 milioni ognuna. È un caso particolare perché diciamo che il 2010 in questo senso si sta contraddistinguendo per le vincite divise tra più giocatori. Ricordiamo quella di fine ottobre di oltre 170 milioni diviso tra 70 persone, oppure quella di inizio 2010, due fortunati giocatori di Parma e Pistoia si divisero anch'esso un jackpot milionario. Ma quella di ieri sera è stata particolare perché è stata ottenuta nella stessa ricevitoria. Quindi c'è chi dice si tratti di due persone differenti. Io sono sicuro che si tratta di due parenti, due amici, se non addirittura della stessa persona, perché statisticamente trovare la stessa schedina vincente in un ambito di 620 milioni e passa di combinazioni possibili è veramente raro. Quindi che la stessa schedina vincente sia nella stessa ricevitoria è un fatto quasi impossibile. Quindi io penso che oggi ci sia una persona che stia facendo una festa doppia, oppure un'intera famiglia che stia festeggiando un cambiamento di vita, perché alla fine insomma sono 72 milioni di euro che sono 72 milioni di euro che sono finiti nelle tasche di questi giocatori. Ma anche sono state giocate in due giorni diversi queste schedine? Cioè ci ha ripensato e ritornato secondo te? Oppure gli ha detto al fratello e alla mamma: io ho giocato questi numeri, vatteli a giocare anche tu. Molto probabilmente, perché veramente pensare due persone differenti che nella stessa schedina, cioè nella stessa ricevitoria, appuntino gli stessi numeri è un fenomeno secondo me praticamente impossibile. Ecco, però stanno cambiando alcune circostanze proprio nella fattispecie del giocatore medio italiano. Una giocata del genere è una giocata che già richiede un impegno economico che va al di sopra dei pochi euro che può giocare una casalinga, un pensionato, una persona in cerca di fortuna. Quindi esiste ormai una classe media di italiani a reddito medio alto che si affida anche al gioco come ulteriore chance di allargare il proprio patrimonio. Adesso rientra in un ambito fra il reale e il leggendario, ma le mitiche giocate di Gaucci, un fantamiliardario che comunque va a giocarsi soldi al Superenalotto. Cosa sta cambiando in questo senso? Mettiamoci anche Emilio Fede, mettiamoci anche altri personaggi noti che comunque con il gioco hanno avuto rapporti stretti. Sta cambiando che così tanti milioni fanno gola comunque anche una classe medio alta, ma il caso emblematico è stato quello del 30 ottobre scorso, quando gli oltre 170 milioni del jackpot, come dicevamo, sono stati divisi in 70 quote, ma quote finiti a un allevatore di cavalli, finiti a un imprenditore con tanto di alberghi e ristoranti. Quindi non sono finite nella classe medio-bassa perché hanno giocate, diciamo, da 25 euro ognuna, quindi non accessibili per esempio a casalinga, ad operai, che non avrebbero mai messo una cifra simile per una giocata al Superenalotto che di solito è perdente. 800 24 00 24. Questa mattina ancora una volta rifacciamo il punto sulla passione degli italiani per il gioco. Gioco inteso in tutte le sue accezioni possibili. Gioco naturalmente è gioco in cui si vincano soldi, non il gioco a figurine tanto per vincere le figurine, visto che siamo vicini al cinquantenario delle figurine Panini. No, quanto giocate, quanto si gioca, quando giocate in famiglia, quanto giocate anche voi alle ricevitorie, quanto affidate insomma a quel momento di adrenalina fantastica una piccola parte delle vostre risorse quotidiane destinate magari ad altri usi. 800 24 00 24. Gli skill games, i giochi di abilità su internet come blackjack, scopa, burraco eccetera, mettono a segno la crescita maggiore del comparto giochi. Guadagnano infatti quasi il 34%, passando da 2,3 a oltre 3,1 miliardi. L'espansione del segmento non è destinata a rallentare nei prossimi anni. Nel 2011 verranno lanciati Poker Cash e Casino Online, che secondo le stime determineranno ritmi di crescita addirittura superiori. I giochi di abilità online non sono però molto redditizi per lo Stato. Nel corso del 2010 hanno corrisposto un gettito di circa 95 milioni. Un anno fa erano 70. È andata decisamente meglio ai giocatori, che hanno vinto oltre 2,8 miliardi. Sentiamo subito Michele. Michele, buongiorno. Buongiorno, volevo dire io, questa inflazione che c'è di offerta di giochi istantanei, tipo Gratta e Vinci, oppure quelli ogni 5 minuti che c'è l'estrazione, è facile che uno prenda il vizio. Invece con i giochi classici di tipo Totocalcio a pronostico, c'è tra un concorso e l'altro passano adesso 3 giorni, prima una settimana. C'è il periodo di raffreddamento, quindi uno il vizio, non ho mai visto nessuno che si è rovinato il Totocalcio. E quindi lei dice ci sono talmente tante tentazioni che chi ha il demone del gioco è come passare attraverso... No, è proprio nella struttura del cervello, diciamo le gratificazioni del gioco sono le stesse del cibo e del sesso, la stessa aria, e quindi è facile diventare dipendenti. A lei è accaduto? Come? A lei è accaduto, dico. No, io tra l'altro io ho una sfida con me stesso, nel senso che avendo letto un libro di come a Wall Street utilizzano le reti neuronali per pronosticare il futuro dalle serie storiche, da ciò che è avvenuto prima, io l'ho applicato al totocalcio, ho avuto buoni risultati con all'epoca il totogol e poi col totocalcio, poi ho interrotto perché c'era un errore nel programma che ho fatto io col Basic, siamo più o meno nel Vabbè, comunque anni, ha trovato un buon passatempo, perché ci mette più tempo a elaborare con Basic stesso, i dati. Sì, anche un passatempo. Ecco, vabbè, quindi per evitare. Fabio Felici, rispetto a quello che dice questo signore, oggi c'è una grandissima tentazione di giocare, è vero, si può giocare in un'infinità di maniere rispetto a prima. Chi ama giocare dice per fortuna, è Disneyland il mondo oggi. No, ma infatti è vero, diciamo che prima i giorni canonici del gioco erano il sabato e la domenica, adesso tutta la settimana, tutti i giorni, Natale, Epifania, Capodanno compreso, perché insomma soprattutto con l'online ormai si gioca sempre. Io sono d'accordo che ci vorrebbe un anno sabbatico, un anno dove il mercato si dovrebbe fermare e dare le possibilità di consolidare il mercato, perché questo proporre giochi a raffica di fatto penalizza i concorsi, perché la gente non si riesce a affezionare. E lui ha ragione, dove giochi diciamo che hanno una frequenza molto rapida su tutte le news slot possono portare un po' di compulsività. Infatti diciamo che i 600.000 italiani malati di ludopatia, questa malattia che non si conosceva fino a 4-5 anni fa, ma adesso è diventata, diciamo, si sa che sono i malati di gioco, e sono soprattutto frutto appunto delle macchinette, perché il gesto compulsivo porta a questa affezione proprio verso la macchina. Ecco, possiamo fare qualche dato statistico? Qual è di questi giochi mordi e fuggi quelli che sono più praticati dagli italiani, più o meno? Beh, assolutamente i mordi e fuggi sono i gratta e vinci che ormai hanno preso il posto del resto. Quando uno va a comprare un pacchetto di sigarette, al posto del resto prende un gratta e vinci. Uno va a fare una ricarica telefonica, al posto del resto prende un gratta e vinci. Il mercato del gratta e vinci è molto importante, dopo le news slot sono il secondo mercato per fatturato, parliamo di oltre 9 miliardi giocati l'anno. C'è da dire che poi qualcuno comunque ci cambia anche vita, perché da quest'anno ci sono anche i vitalizi con il gratta e vinci, quindi già qualche italiano ha sistemato lui e le generazioni future per tutta la vita. Quindi ricordiamo, spieghiamo di cosa si tratta. Si tratta che invece di vincere subito soldi, vince dei soldi come fosse uno stipendio a vita. Esattamente, l'ultimo gratta e vinci permette di vincere subito una cifra importante, 500.000 euro, e poi avere una rendita di 10.000 euro al mese per 20 anni, rendita tra l'altro ereditabile, quindi si può passare anche ai figli eventualmente, tutto quanto, ed è un caso nuovo in Italia. In Inghilterra, negli Stati Uniti i vitalizi già esistevano da diversi anni, ma in Italia è il secondo tipo di vitalizio. C'era stato prima il Win for Life, la schedina che garantiva 4.000 euro al mese, saliti adesso a 6.000 euro al mese. Quindi diciamo ci stiamo spostando più in una vincita diluita, per fare in modo che chi vince magari non faccia un investimento sbagliato, si rovini subito, come è capitato qualche anno fa con un vincitore della Lotteria Italia che vinse, se non ricordo male, qualche milione all'epoca con il primo premio, fece un investimento in campo immobiliare, gli andò male e si ritrovò a fare il clochard. Ognuno poi è artefice delle proprie fortune o sfortune, i soldi ce li aveva, poteva usarli in maniera più saggia. Roberto, buongiorno. Buongiorno, c'è anche chi vince non giocando, può essere? Ah, non lo so, dipende. Sì, io purtroppo abbiamo un'attività commerciale noi all'Aquila e molto spesso signore mi hanno chiesto lo sconto di 10 centesimi sulla pizza per poi andare a comprare a fianco un gratta e vinci da 10 euro. E dicevano? Dico, alla nostra attività ci continuano molte volte a chiedere sconti di 20-30 centesimi, quando poi a fianco spendono 10-20 euro a comprarsi gratta e vinci. Quindi? No, e quindi io dico che sono devastanti questi giochi. Vabbè, ma lei non è obbligato a fare lo sconto sulla pizza, lei non lo faccia. Sì, no, me lo chiedono, però poi gli stessi vedo che ci giocano a fianco e comprano plichi di gratta e vinci da 10 euro. Quindi lei dice il frutto del mio lavoro viene eroso per alimentare il vizio del gioco, lei vede in questa ottica? Sì, io penso che siano proprio devastanti tutti questi giochi che sono in giro, perché chiaramente è facile prendere il vizio, sentivo il radioascoltatore prima che ormai appena ti muovi, se uno non è cosciente o se... cioè è facile cadere in tentazione. Vabbè, guardi che le strade d'Italia sono piene di vinai, sono piene di enoteche, i supermercati sono pieni di bottiglie, il mondo è pieno di belle donne e begli uomini, non è che adesso la compulsività nasce con l'offerta, uno può anche non giocare. Quando fanno la pubblicità pure in televisione, lei sa benissimo che un messaggio ripetuto giorni e giorni a qualsiasi ora, bene o male, poi alla fine entra entra nelle persone, chiaramente fortunatamente non per tutti. Fabio Felice, qua bisogna a questo punto fare un punto. Ogni volta ci troviamo a affrontare questi argomenti, siamo sempre di fronte a questa idea, diciamo, del proibizionismo. Io sono molto liberale di mente. Fa indotto, non è un'attività illecita, comunque è un'attività che è dentro le norme di ogni diritto di poter essere esercitata. Non smetterei di considerare l'essere umano come una sorta di bambino a cui bisogna evitare le tentazioni. No, gli italiani sono più cresciuti di quello che si pensa, perché noi diciamo, cioè, non dovrebbe esserci nemmeno la pubblicità delle mutande intimissimo, se così ragionassimo, scusa. Hai perfettamente ragione, ma la cosa bella è che noi siamo 30 milioni di giocatori, cioè un italiano su due tenta la fortuna, chi in maniera più spesso, chi in maniera più saltuaria, ma non per questo, come dici te, il gioco va demonizzato, perché se non ci fosse lo Stato a gestire il gioco, e quando si parla di Stato di biscazziere a me viene veramente della rabbia, perché il gioco sarebbe in mano alle organizzazioni criminali, non è che se non lo facesse lo Stato il gioco scomparirebbe, si finanzierebbero camorra, mafia, alle organizzazioni che qualche anno fa avevano in mano il mercato delle newslot, avevano in mano il mercato delle scommesse, avevano in mano il mercato del bingo, che in Italia non c'era. Quindi, perché se lo stadio è biscazziere, allora ridiamo tutti in mano alla criminalità, è sbagliato. Cioè, dai film di gangster degli anni 30, le slot machine sono delle attività gestite dalla mafia, era così. Ma fino al 2005 c'erano i videopoker nei bar, nessuno era collegato alla rete dello Stato. Quei soldi che fine facevano? Erano fonte di riciclaggio di denaro, erano fonte di sovvenzione per camorra, ma tutte queste organizzazioni. Meno male che c'è lo Stato che lo fa, che ci sia un po' di pubblicità controllata, è giusto come in qualsiasi prodotto. Questo è un mercato che è il terzo mercato per fatturato dopo energia e telefonia in Italia, 120.000 addetti, 5.000 aziende coinvolte, 9 miliardi come abbiamo sentito nel servizio prima all'erario, e con i soldi dell'erario ci si costruiscono strade, scuole e quant'altro. Quindi demonizzare il gioco è sbagliato, perché intanto ci sarebbe lo stesso, ma già che ci sta, ma ripeto, qualcuno ci cambia anche vita, aiutiamo l'erario. Certo, fatto compulsivamente è sbagliato, queste persone vanno aiutate, ci sono organizzazioni che le aiutano, però ecco, diciamo questo, Fabio, diciamo, qualora rientri in uno stato patologico, perché giocarsi la schedina al superenalotto non credo che entri una patologia. La patologia è quando uno ha un'attività compulsiva che esaurisce tutte le proprie risorse in quella direzione. Può essere il gioco, può essere il sesso, può essere un'infinità di altre attività, anche lì per lavoro, molte volte da compulsività. Ecco, esistono delle organizzazioni a cui rivolgersi per aiutare perlomeno a risolvere questo problema? Assolutamente sì, ci sono, per esempio c'è il Gemelli di Roma, a Campo Formido vicino a Udine c'è una struttura proprio fatta per il, organizzata per i giocatori compulsivi, c'è a Palermo, ci sono degli sportelli SOS gioco su internet, cioè in Italia si sta molto attenti al giocatore ludopatico, viene seguito con molta attenzione, ci sono dei limiti di gioco, ricordiamo che in Italia le vincite per esempio sopra i 1000 euro sono tutte, bisogna presentare un documento per ritirarle, per la legge antiriciclaggio. C'è il limite di divieto ai minori, adesso nell'ultima legge di stabilità tutti i giochi sono stati vietati ai minori di 18 anni, quindi nessun ragazzo può avvicinarsi al gioco, siamo molto controllati da quel punto di vista. Per questo io reputo, cioè, qualunquista parlare sempre di gioco che rovina famiglie, facevi giustamente l'esempio dei vinai, in Italia se non sbaglio ci sono 4 milioni e mezzo, un milione e mezzo di alcolizzati, ma non per questo vengono tolti i vini. Ma certo, ma è che è una delle risorse principe del nostro paese produrre buon vino, non è questo il problema. Sentiamo Alex, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno al suo ospite. Io più che altro volevo fare un'osservazione. Mi capita, per fortuna, poche volte di andare a giocare il Win for Life, ma veramente poche volte durante l'anno, o il Superenalotto, quello che è, e vedo molti anziani, oltre 70 anni, 75 anni, che vanno a giocare cifre esagerate, nel senso che tutti si lamentano che non ci sono soldi, che la pensione è bassa. Io sono d'accordo, perché io vedo anche mio papà che la pensione è quello che è, e l'Italia vedo come va, però vedo che giocano cifre importanti, 50, 60, 70 euro, 150 euro, cioè a volte io vado lì per giocare 1 euro, 2 euro al Superenalotto, così quando mi capita quelle 10 volte l'anno, e vedo queste donne qua con tutti questi soldi nascosti che vanno a giocare cifre allucinanti, cioè spendere 50, 60, 70 euro vorrebbe dire ipoteticamente per una persona anziana mangiare 2 giorni, 3 giorni. Ma io adesso sentiamo, ho capito il concetto, sentiamo cosa ne dice Fabio Felice. Io dico la mia lettura personalissima. Io penso che a 70 anni ognuno abbia diritto di spendere i soldi della pensione come meglio vuole. Uno può continuare ad alimentarci i figli bamboccioni, uno può giocarseli se vuole, visto che sono soldi suoi. Io penso a quelli che vede lei che vanno a giocare, non è il pensionato tipico che non riesce a quadrare il pranzo con la cena, ce ne stanno veramente tanti, c'è una povertà sommersa devastante nel campo dei pensionati, che veramente hanno problemi. Sono quelli che hanno sempre giocato nella vita, sono quelli che hanno le loro piccole risorse, il loro tesoretto, il loro gruzzoletto, hanno le loro lauto e pensioni, che insomma è decino che quei soldi, invece che andarsi a comprare un libro, andarci al cinema, andarci a fare un viaggio, se li giocano all'otto, è la loro fetta di lecita felicità. Io su questo sono perfettamente laico. Fabio, come la pensi te? Solo un piccolo passo indietro. Mi dispiace sentire che le persone che stanno intervenendo, scusate, parlano sempre quasi con vergogna. Io gioco poco, io non ho mai giocato. Come se ci fosse da vergognarsi a parlare di gioco, il che è assolutamente sbagliato. È un'attività come un'altra, non c'è niente da nascondere. Io mi ricordo 20 anni fa, entrare in una recitere lotto sembrava quasi fare un'azione carbonara. Le donne entravano di nascosto, magari quando era più mandavano buio. Qualcuno. Mandavano qualcuno. Sì, questa giocata è per mia zia, per mia nonna, perché mentre non è più così, veramente ormai il gioco deve essere fatto alla luce del sole senza nessun problema. Quindi vorrei anche che persone che si espongono, sì, io gioco regolarmente, mi diverto, perdo, vinco, e come dovrebbe essere naturalmente. Per quanto riguarda, io frequento ricevitorie e agenzie di scommesse per lavoro, quindi tutte queste persone anziane che spendono così tanti soldi non ne incontro così spesso. E comunque, come dicevi te, se ci tolgono anche il modo di sognare, dice, di sognare di cambiare vita, di beccare il gratta e vinci con il vitalizio, di beccare il terno vincente all'otto, se ci tolgono anche questa possibilità di sognare, allora la vita diventa più grigia ed è già di quello che è. Beh, poi devi anche considerare che in realtà, e questo emerge ogni volta che parliamo di argomenti simili, che non è soltanto il gioco, ma tutto ciò che è legato al mondo della piacevolezza, tutto ciò che ci dà piacere, ci dà soddisfazione, dobbiamo consumarlo in solitudine, di nascosto, un po' per vincere l'invidia degli altri, un po' perché ciò che dà piacere è legato al senso del peccato. Ancora siamo fortemente legati al nostro paese, che tutto ciò che ci dà gioia è peccaminoso, quindi va fatto comunque nell'ombra, nella penombra, nel nascondimento. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Stavolta a brindare di più è il Lazio. Quasi la metà del jackpot del Superenalotto più ricco di tutti i tempi è finita infatti tra la capitale e le altre province della regione. La festa più grande è a Sperlonga, che si aggiudica più di 63 milioni di euro grazie alle 25 quote da oltre 2 milioni e mezzo ciascuna vendute agli avventori di questa ricevitoria del comune pontino. Pronto per l'estrazione dei record, Superenalotto da 100 milioni di euro, cifra tonda, mai così alta nella storia dei giochi in Italia. Merito di una sestina che manca da 6 mesi, una febbre che ha fatto quasi triplicare le giocate. Finalmente uscito poco fa il 6 al Superenalotto, è stato centrato a Catania ed è un 6. Stiamo facendo un ulteriore punto sulla passione del gioco e gli italiani. Abbiamo visto e notato che è un settore fiorente, un settore controllato, un settore che procura un ottimo indotto, quindi dovremmo esserne tutti contenti. Rimane sempre questa nostra antica passione per l'automortificazione, per la morale comune, per far sempre le pulci, tutte le volte vediamo qualcun altro svolgere un'attività ludica, divertente, di soddisfazione, quindi riemerge questa vena sacrestanesca e moralista per cui chi gioca è un vizioso. Chi gioca probabilmente può essere anche un vizioso se vogliamo, ma è comunque un vizio controllato, è un vizio distribuito nei frutti appunto dei proventi che fornisce allo Stato. Abbiamo in studio Fabio Felici, direttore dell'Agicos, che è l'agenzia giornalistica di concorsi e scommesse, che appunto fornisce notizie sul mondo del gioco. Abbiamo detto, Fabio, che in realtà oltre a essere un'attività sotto controllo, su questo dovremmo forse dire che è uno dei settori su cui non c'è nulla da dire o c'è poco da dire rispetto all'efficienza dello Stato. Rispetto ad altri paesi esteri, come si è comportata l'Italia nel creare una rete di controllo pubblico sull'attività del gioco? Ma su questo, come dicevi, non c'è dubbio. Nel 2005, quindi non è che parliamo dell'era preistorica, appena 5 anni fa, per esempio, videopoker spopolavano nei bar ed erano tutti in mano a organizzazioni criminali. Oggi non ci sono più i videopoker, ci sono macchine, le slot che troviamo in bar, ricettorie, tutte attaccate alla rete dello Stato, quindi tutte controllabili. 4 anni fa il mercato delle scommesse clandestine valeva 4 volte il gioco regolare. Oggi, diciamo, ci sono ancora, per carità, è lungi dall'essere vinta la battaglia ancora contro il gioco clandestino, ma oggi il mercato clandestino è quasi equivalente a quello normale, il che è stato un abbattimento di quella che era l'importanza del mercato illegale qualche anno fa. Ripeto, 4 volte valeva, adesso siamo alla pari. Quindi l'opera dello Stato si sente, della Guardia di Finanza, delle forze di polizia. Non passa giorno che non ci sia un sequestro di un'agenzia di scommesse clandestina o di qualche, che non so, dove fanno corse di cavalli, corse di cavalli irregolari, corse dei cani che sono proibite in Italia. Quindi l'opera c'è stata ed è bene che sia così. Noi siamo, sì, ho visto un servizio in televisione, sempre delle solite Iene o Striscia la Notizia, che sono quelli più attenti a queste realtà clandestine di cavalli, vanno fatti correre in città, mi sembra vicino a Napoli o a Napoli proprio, alla mattina presto, cavalli drogati vanno beccati, facciano una corsa velocissima in cui si scommetteva. Ma queste sono attività marginali e chiaramente nella totale illegalità, in cui è difficile far qualcosa se non si colgono sul fatto o non si fa un'attività investigativa. Ah certo, bisogna che ci siano denunce a proposito. Infatti in quell'opera del cittadino in questo senso è molto importante, però noi abbiamo fatto passi da gigante il controllo, ma per esempio anche su internet. Per giocare su internet in Italia devi presentare documento, codice fiscale, firmare dei fogli, quindi questo per impedire il gioco ai minori e comunque per sapere sempre chi c'è su internet, visto che non ti posso vedere in viso. Quindi è anche, per esempio, il gioco su internet controllatissimo, e questo a me fa piacere, perché fenomeni di clandestinità sono sempre più ridotti e questa è la strada da percorrere. Ecco, visto che hai suscitato l'argomento del gioco in internet, come ho già detto prima, gli italiani che all'apparenza erano fra le nazioni più arretrate nell'uso, nella conoscenza, nella diffusione del pensiero digitale, invece pare che abbiano superato questo loro problema anche, soprattutto nel campo del gioco. Abbiamo al telefono Fabrizio Daloia. Daloia, buongiorno. Buongiorno. Daloia, presidente di Microgame, che è il più importante operatore italiano di gioco online. Ricordo che in Italia oggi sono online tutti i giochi, dal bingo al superenalotto, alle scommesse, ai gratta e vinci, via dicendo. Ecco Daloia, come le è venuto in mente costruire, immaginare, pensare una rete di gioco per gli italiani? L'idea è nata alle dosse degli anni 2000, osservando i paesi europei più all'avanguardia. Nel Lei cos'è, un informatico? Come nasce professionalmente? Io nasco come software house, in precedenza ho fondato un'azienda tuttora esistente che sviluppava software, poi con l'avvento dell'internet commerciale nel 93 ho disinvestito in quell'azienda e ho investito in Microgame per fondare Microgame, con l'obiettivo di farne una internet company che è nata come un internet service provider, e poi nel 98 abbiamo ceduto l'attività di internet service provider ad un operatore di telefonia e abbiamo reinvestito i proventi nello sviluppo della piattaforma applicativa per il gioco a distanza, proprio prevedendo lo sviluppo che avrebbe avuto questo mercato nel futuro, parallelamente allo sviluppo di internet, parallelamente allo sviluppo e alla legalizzazione dei giochi online. Quindi voi avete proprio pensato e sviluppato queste piattaforme, quindi è un prodotto, diciamo, che nasce da voi in parte. Sì. È un prodotto Microgame, si vanta di essere l'unica azienda totalmente made in Italy che offre per il gioco a distanza agli italiani una piattaforma totalmente progettata e sviluppata in Italia da italiani. Ecco, rispetto a quello che diceva Fabio Felici, tanto per diradare tutte le nubi possibili, possono esserci negli osservatori che non sono al dentro della materia, Felici ha detto che anche il gioco online è controllato, c'è una forma di controllo. Ci spiega meglio in che maniera? Beh, intanto non è che anche il gioco online è controllato, solo il gioco online è controllato, abbiamo una grossa falla nel sistema che è il gioco nei negozi delle agenzie, nei corner, dove chiunque, dal minore al pregiudicato, possono recarsi portando lì dei contanti e giocare. E quindi lei dice online per paradosso c'è molto più controllo su chi gioca online, quindi è un sistema che ha delle gabbie più strette rispetto a chi va a una ricevitoria. Allora, il gioco online è un gioco che noi definiamo nominativo, in quanto per poter giocare online c'è bisogno di aprire un conto di gioco ed essere identificati. Quindi tutte le attività di gioco, nonché le attività finanziarie connesse al gioco, depositi e prelievi da questo conto di gioco, sono totalmente tracciate. Quindi è possibile risalire all'origine dei fondi, è possibile risalire al giocatore che ha effettuato le operazioni di gioco, di deposito e di prelievo. Quindi è un gioco totalmente sicuro. Da questo punto di vista, dal nostro punto di vista, il gioco su strada, quello nelle agenzie, nei negozi, nei corner per intenderci, è un retaggio del passato. È un retaggio del passato con cui facciamo i conti tutt'oggi, ormai è una modalità di gioco che io definisco anacronistica, che bisognerebbe al più presto limitare e espellere dal mondo dell'economia. Quindi lei applica al terreno del gioco quella che è la proiezione più ottimista rispetto, ne so, alla pubblica amministrazione, le transazioni, via dicendo, tutto il tempo che si perde e gli apparati concreti, le strutture materiali impiegate in una serie di attività che dovrebbero essere fatte online dovrebbero scomparire. Certo. Su questo siamo d'accordo. Ma lei lo dice nel campo del gioco. C'è un costo sociale elevatissimo nel mantenere in piedi una infrastruttura di gioco fisico su strada, un costo sociale legato al monitoraggio di queste attività da parte delle forze dell'ordine, legato a fenomeni malavitosi di infiltrazione, di riciclaggio, di ludopatie, per cui questo che è un retaggio del passato con cui ancora oggi facciamo i conti andrebbe limitato quanto più possibile. Cioè, noi auspichiamo una politica da parte dell'authority che tenda sempre più a spostare le attività di gioco dal mondo fisico verso il mondo online. Ecco, secondo lei resistenze da cosa sono date? Al di là l'aspetto romantico, la vecchia ricevitoria con il vecchietto che ti diceva i numeri e via dicendo, che sono cose che ormai fanno parte del folklore, qual è il problema per cui un'attività che potrebbe essere veramente sotto controllo totale? Il problema sono gli interessi economici. Non è un caso, ed è inutile nasconderci dietro un dito, che dietro molte delle aziende che gestiscono dei network anche importanti di punti vendita di gioco sul territorio si nascondano capitali poco leciti, proprietà poco legali. E quindi dice, sarebbe un passo avanti dal punto di vista della trasparenza e della chiarezza. Assolutamente. E sentiamo Sergio, ascoltatore Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamavo perché prima ho sentito il vostro dibattito, in realtà c'era il vostro ospite, l'esperto appunto dei sistemi di scommesse, che diceva che si fa un po' di pubblicità controllata. Io su questo non sono d'accordo perché nei maggiori telegiornali si crea una certa tensione su, che so, facciamo un esempio sullo Superenalotto, in cui si inizia all'inizio già dando la notizia sullo stato dei numeri, poi a metà telegiornale ne fanno un'altra, poi alla fine comunicano le vincite. Quindi in realtà c'è molta tensione, quindi si crea un evento mediatico importante verso le vincite, verso questo tipo di giochi. E qual è secondo lei il problema in questo? È che, voglio dire, le persone sono anche spinte emotivamente dal sistema mediatico a giocare, e in realtà, come dicevo prima, si spinge all'illusione, perché dovrebbero essere forniti i dati di quanti vincono rispetto a quelli che scommettono. Cioè, non prendiamoci in giro, io ho giocato anche per anni senza mai vincere. E poi siccome faccio anche un certo mestiere scientifico, sono andato a guardarmi i dati delle vincite rispetto a quelle alle giocate. La probabilità di vincere è bassissima. Se no non si vincerebbero tanti soldi, se tanti non buttassero soldi dentro il gioco. Questo Fabio Felice. Il gioco non è un'organizzazione di beneficenza, chiariamolo. Non è che, voglio dire, che assicura la vincita. Assolutamente, è una fonte di entrate erariali, è una fonte di gioco controllato per fare in modo che la passione che hanno gli italiani venga fatta in estrema sicurezza e tutto quanto. Tra l'altro, le pubblicità che garantiscono vincite o cose di questo genere sono proibite, perché tutte le aziende che fanno pubblicità devono prima sottoporre spot e messaggi pubblicitari vari alla amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che danno l'ok. Questo proprio da convenzione, da contratto, quindi tutte le pubblicità sono assolutamente controllate ed è giusto che sia così, ma non ci vedo niente di scandaloso. Mi sembra di capire, Fabio, che è un settore veramente molto controllato, che si ha una grande attenzione, si va a passi felpati, perché sarebbe molto facile cadere nella trappola appunto di fare una pubblicità non rispondente alla verità nel campo del gioco, e si entrerebbe veramente in un tunnel da cui sarebbe sarebbe difficile uscire, visto che la materia è molto delicata e c'è anche una grande attenzione e sensibilità nei confronti del gioco, perché naturalmente sono tanti quelli che spendono soldi alle ricevitorie o giocando e sono pochi quelli che vincono. Questo poi mi sembra faccia parte della chiave stessa del gioco. Esattamente, perché sennò non si farebbe, cioè non è che lo Stato non può essere sbancato da quel punto di vista, perché appunto, ripetiamo, non è che viene fatto per beneficenza, viene fatto non perché... si chiamerebbe gioco d'azzardo se non ci fosse un azzardo. La parola è brutta, ma è questo. Uno gioca, azzarda, sa che i giochi li mette in bilico una possibilità minima di vincere e tante possibilità di perderli. Sì, ma poi che questa pubblicità sia così incisiva, ci sono dati che la smentiscono. In questo senso, quando c'è stato il jackpot record al Superenalotto, la giocata media al Superenalotto era di 2,30 centesimi a persona, quindi non c'erano quelle giocate folli. Ci sarà stato che è esagerato, ma la media era di appena poco più una giocata di 2 euro, quindi alla portata credo di chiunque, nonostante queste pubblicità che diceva l'ascoltatore del Superenalotto, i numeri dati in diretta TG e tutto quanto. Ecco, tanti devono giocare pochi soldi perché pochi vincano tanti soldi. La chiave è questa, non vi fate illusioni. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. C'è grande attesa per la prima estrazione che avverrà domani a mezzogiorno di Win for Life, Vinci per la vita, il nuovo gioco della Sisal che come premio offre una rendita mensile di 4.000 euro per 20 anni, ma anche un aiuto concreto per l'Abruzzo. Questa Win for Life è un gioco a premi che prevede fortuna a puntate. Il volume di affari di Sisal nei primi 6 mesi dell'anno è stato intorno ai 4 miliardi di euro, più 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e poi i picchi del Superenalotto, ci sono state 1,5 miliardi di giocate. Turista per sempre, costa 5 euro e una lotteria istantanea, farà gola a chi non rinuncia a staccare gratta e vinci dal tabaccaio. Nel 2009 sono stati vinti oltre 6,3 miliardi di euro. Se si è fortunati con Turista per sempre si possono ricevere 6.000 euro al mese. Per Fabio Felici, direttore dell'Agicos, agenzia giornalistica di concorsi e scommesse. Win for Life, abbiamo parlato, è un fenomeno che già è cambiato rispetto a quello che abbiamo detto in questo servizio, che è un po' datato. Sì, è vero, adesso sono 6.000 euro in palio, è un po' cambiato. Tra l'altro, dopo il boom iniziale di un anno fa, fu il primo vitalizio istituito in Italia a fine settembre 2009, sono entrati altri giochi, come dicevamo all'inizio puntata, e quindi c'è stata già meno attenzione a questo gioco che di fatto aveva scardinato una porta che prima non era mai stata aperta, quella del vitalizio in Italia. Però, come dicevamo, non essendosi mai fermata l'offerta di gioco, essendo sempre aumentata, c'è stata poca possibilità di affezionarsi al Win for Life. Oggi viaggia con una sua dignità di raccolta, però non è più quel boom che è stato all'inizio. Ecco, sentiamo Salvatore, un ascoltatore. Buongiorno Salvatore. Buongiorno a tutti, mi scuso anticipatamente perché sono un po' emozionato, visto che non ho mai fatto un intervento così per radio. Vabbè, c'è sempre una prima volta, stia attento. Lo so, sempre. Ne sopravviverà, penso, da questa cosa. Sì, credo, spero di sì. Volevo parlare appunto di questo fatto, di questo increscioso, di queste scommesse esagerate. Lei lavora in un centro scommesse? Io lavoro, sì, in un centro scommesse. Legale, spero, sì. Sì. Benissimo, naturalmente. Però vedo che arrivano persone che magari lei guardandole... non hanno questi grandi introiti monetari, perché si vede. Si vede. Vestiti da morti di fame. Io non volevo dire cose. Ogni cosa ha il suo nome. Ma si vede esattamente. Non è una scarpe cosa scalcagnate, vestiti di vecchio taglio, camicie sporche, barba lunga, il tipico. Unghie nere. Lezzo di pipì, sì. Addirittura. Però arrivano a fare giocate di... Io non scherzo, non esagero, io da sportellista lo vedo, perché hanno fatto anch'io con me queste giocate, 200, 300, 400... Quindi sono barboni alcolizzati, presi per strada, clochard, mandati con soldi di altri? Sono pensionati, oppure i lavoratori, nulla da togliere l'IGM, però appunto sono lavori statali. Persone... non si fa la pipì addosso, chi se la fa di solito è già una persona che vive in condizioni anziane. Di emarginazione. Persone anziane, nel caso della VIP addosso persone anziane che sono in caso di emarginazione non seguite ai familiari. Quindi portano soldi di altri, sono presta trasportatori di soldi da investire nel gioco, questo però hanno o i soldi di altri o i loro soldi. Il problema qual è? Che noi qui stiamo a giudicare il loro atteggiamento. Ho sentito prima addirittura che si dice che si va nel centro scommesse come una cosa vergognosa, ma alla fine loro stessi si nascondono. E io le dico, se io nascondo un mio atteggiamento, lo nascondo perché? Perché io stesso so che è sbagliato. Le faccio un esempio, io amo la mia ragazza, io bacio la mia ragazza, non ho paura di dirlo. Se io picchiassi la mia ragazza, non lo direi così apertamente, perché io stesso so che è sbagliato. Sarebbe inutile dirlo. Quindi lei cosa conclude da questo punto di vista? Su questo punto io posso dire soltanto che non è inutile giudicare chi gioca e spende soldi, perché alla fine è semplicemente... Ma nel senso che stamattina era dare delle informazioni, il giudizio venne dal pubblico, le persone chiamano e il contributo è quello di giudicare, come se bastasse soltanto esprimere un giudizio di tipo etico, morale sul giocatore, poi parlare del problema complesso comunque del gioco. Comunque la ringrazio. Volevo introdurre a questo punto un altro ospite, visto che stiamo toccando gli aspetti legali, il borderline legato al mondo del gioco, che nessuno nega che possa esistere. Avvocato Stefano Sbordoni, buongiorno. Buongiorno. È un esperto legale di giochi in Italia e nel resto del mondo, ha contribuito ai contatti tra il governo italiano e quello francese, ad esempio per lo scambio di informazioni su questo mercato. Il fatto che esistano degli scambi di informazione tra governi mi fa pensare che ci sia bisogno di un'ulteriore attenzione rispetto a questo mondo. Ma sì, senza dubbio, ma è un'attenzione in realtà che è cresciuta tanto quanto si è recuperato dall'illegalità tutto quello che avveniva già sia in Italia che all'estero. Poi ogni paese ha le sue particolari affezioni a certi tipi di intrattenimento, c'è chi è più propenso, c'è chi è meno, il nostro paese è tra quelli che presentano un livello di propensione più elevata, ma non il più elevato, quindi ci sono posti o paesi dove... Ci faccia un esempio per capire un po' se in una ipotetica mappa mondiale dei giocatori europea come siamo messi. Ma diciamo che siamo nei primi 5 posti. Adesso con precisione questo può variare, però senza considerare tutti quei paesi, come lei sa, dove non si possono avere questo tipo di informazioni o perlomeno dove non ci sono statistiche attendibili, come possono essere paesi dell'estremo est orientale, quindi Cina o via dicendo, dove c'è una propensione altissima ma nessuno lo conferma ufficialmente. Beh, è difficile un po' capire. E Fabio Felici, dovevi domandare qualcosa all'avvocato Sbordoni? Volevo chiedere all'avvocato Sbordoni, visto che insomma c'è circolazione di lavoratori, dogane che non esistono più, cioè siamo un paese unico diventato in Europa di fatto con senza più barriere, e si può ipotizzare che ci siano delle leggi comuni, cioè che si possa pensare a un gioco europeo, a un gioco condiviso con gli altri paesi, o siamo talmente ancora troppo diversi su certi aspetti magari sociali, di costume, che è impensabile che ci siano anche un aspetto europeo nell'ambito del gioco? No, sicuramente aspetti comuni europei sono già in lavorazione da parte della Commissione relativamente a quelle che potrebbero essere delle regole, ma più che regole direi dei principi condivisi. È chiaro che c'è un grossissimo ostacolo che è la fiscalità, perché ciascun paese trae una fiscalità diretta e indiretta dalle entrate dei giochi che poi viene redistribuita alla popolazione sotto varie forme, e quindi ognuno tiene a poter redistribuire la propria non avendo nulla di garantito su quello che prenderà dagli altri. Ecco, avvocato, un'altra cosa, ma qual è secondo lei ancora il settore da sviscerare, da chiarificare maggiormente, perché sempre l'attenzione, il pubblico di una trasmissione radiofonica è minimamente indicativo di quelle che sono in realtà le linee di pensiero corrette su un argomento, però dà l'idea più o meno di quelle che possono essere le attenzioni o le preoccupazioni. Se dovessero dire i passi avanti ancora da fare nel territorio del controllo della libera possibilità di giocare da parte di chi voglia giocare, quali sono i settori su cui bisogna lavorare ancora? Ma io credo sinceramente, lo dico proprio come mio pensiero personale, del quale sono convinto, che i passi che si stanno facendo siano tutti passi in avanti. Magari possiamo parlare di tempistica, no? Che alcuni potrebbero essere accelerati, o si potrebbe prestare, come ha detto giustamente lei, più attenzione ad un comparto piuttosto che a un altro. Questo naturalmente un'autorità, è stata definita authority, al momento è un ente dedicato che se ne occupa. Come si chiama? È l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. È quella che si occupa, diciamo, di controllare tutto ciò che accade nel mondo del gioco, comprese le pubblicità che non debbano essere ingannevoli, queste cose. Esatto. Ecco, questo è un punto che lei ha toccato, che è molto importante e dove siamo in evoluzione. Si sta adesso attenzionando ancora di più la modalità con cui si comunica anche a livello pubblicitario, no? Perché esistono dei concessionari che sono aziende, sì, concessionari di Stato, ma aziende private. E ecco, avvocato, devo interrompere perché la sigla ci dice la trasmissione è finita, ma vedo che l'argomento è ancora caldo e ancora in via d'evoluzione, quindi ci torneremo quanto prima con Fabio Felici, che ringrazio Fabrizio Laloia, grazie avvocato Sbordoni, a domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.